isolata per starsene a letto, ma dimentica il sogno e devi farlo in fretta. Oggi è un giorno come un altro, c'è Milano che ti aspetta, c'è Milano che ti aspetta, c'è Milano che ti aspetta. Sei già in ritardo, devi bere il cappuccino e comprare il giornale. Tobio è sempre uguale, Tobio originale. E tutte le mattine la solita storia, ripeti i movimenti che conosci a memoria. Ti scegli la cravatta ascoltando il notiziario, poi di volata fino al terzo binario. Tobio quasi pronto, senza rendersene conto. Dentro la sua testa, in fondo alla sua mente, fantasmi di un passato perduto per sempre. Insegue testardo un sogno bestiale e controcorrente con gli amici di sempre. Passaggio, le solite facce, quelle facce di ghiaccio, vestite tutte uguali, sempre in ritardo, quel treno strapieno, un mostro d'acciaio che ti porta lontano. Tobia va a Milano e si sente un poco strano, e salta sul metro con altri coglioni, slalom speciale fra taxi e furgoni, poi di corsa nel bunker al decimo piano. Saluti e sorrisi e strette di mano, vomito e nausea, Tobia corre in bagno. Giornate interminabili, fra me e il sito web, aspetti l'ora d'aria, per una fuga al bar, ma è lento, lento quell'orologio muro. La tua testa è già sul treno che ti porta dritto a casa. Speri solo di arrivare e riprendere a sognare. E riprendere a sognare. E riprendere a sognare. E riprendere a sognare.